Componimento 74esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Io son già stanco di pensar sì come i miei pensier in voi stanchi non sono, e come vita ancor non abbandono per fuggir de sospir sì gravi some. E come a dir del viso e delle chiome e de begli occhi ond'io sempre ragiono, non è mancata omai la lingua e il suono dì e notte chiamando il vostro nome. E che pie miei non son fiaccati e lassi a seguir l'orme vostre in ogni parte, perdendo inutilmente tanti passi. Ed onde vien l'enchiostro, onde le carte, chi vo empiendo di voi? Se n ciò fallassi, colpa d'amor, non già defetto d'arte. Fine del componimento.